Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Sarete con me oggi e domani, poi naturalmente torna Sebastiano Barisoni. Di cosa tratteremo oggi? Naturalmente parleremo dei dati sulla produzione industriale italiana, che sono veramente pessimi, un meno 1,2% in maggio rispetto al mese precedente, rispetto ad aprile, un dato che anche secondo quello che hanno riferito i tecnici dell'Istat era inaspettato, soprattutto per dimensione del calo, e un meno 1,8% rispetto all'anno precedente, quindi un dato piuttosto pesante. C'è un elemento, se vogliamo, stagionale, ossia il fatto che quest'anno il primo maggio cadeva di giovedì, quindi la gente molto semplicemente si è fatta il ponte, però naturalmente non è giustificabile in altro modo che non con una debolezza complessiva dell'economia italiana, testimoniata tanto dalle previsioni di Confindustria, che tra l'altro ne sono arrivate di nuove oggi, poi ne parleremo, del Centro Studi di Confindustria. Tanto dalle previsioni sul PIL, quanto dalle previsioni dell'Istat sul PIL, insomma, che davano nuovi segnali negativi per il trimestre a venire. Naturalmente tutto questo ha un impatto su vari fronti, a partire da quello dei conti pubblici, almeno teoricamente, perché come sappiamo il rapporto tra deficit e PIL è un rapporto, e quindi se cala il PIL, questo ha un effetto evidentemente anche sul calcolo del deficit e sul calcolo del debito. Parleremo più in particolare però appunto della produzione industriale, della debolezza della produzione industriale, annettendo a questo anche qualche notizia sull'ILVA, perché tra l'altro il governo si preparerebbe ad intervenire, inizierà più tardi il Consiglio dei Ministri. Ci occuperemo di questo e di questa, vogliamo chiamarla, correzione sui mercati, un meno 1,43% oggi sul FTSE MIB, e qua ha pesato anche il dato sulla produzione industriale, un meno 1,46% sul FTSE All Share, negativa però anche il resto d'Europa, perché Francoforte c'è dell'1,22%, Parigi l'1,02% e Londra lo 0,46%. Correzione, si diceva, in parte ci sono dati negativi che non arrivano solamente dall'Italia ma arrivano anche da altri paesi, la Germania su tutti, tanto per fare un esempio, e poi ci sono tutte le preoccupazioni correlate a quello che succede per quanto riguarda il Portogallo, dove ci sono timori sulla tenuta almeno di una parte del sistema bancario a causa della crisi di Banco Espirito Santo. Ne parleremo ovviamente di tutto questo nella parte che riguarda i mercati, con il 349-238-6666 per i vostri sms. E poi parleremo di un investimento importante che è arrivato in realtà da imprenditori italiani e che riguarda il settore del divertimento, il settore del turismo. È stato inaugurato a oggi Cinecittà World, che è un parco tematico alle porte di Roma dedicato al racconto del cinema. È una storia interessante perché ci racconta come si possa fare intrattenimento, che è un'industria nella sostanza, anche se a volte tendiamo a sottovalutarla, in un altro modo, in un modo diverso, ed è una storia interessante perché ci racconta anche di vicende burocratiche che hanno bloccato questo investimento per molti anni. Di tutto questo e non solo parleremo, intanto le notizie in breve di oggi. Allora, c'è anche il numero per gli sms, ma lo sapete, 349-238-6666, lo sapete, lo dico perché già arriva chi con rabbia dice: dato inaspettato, ma voi dove vivete? Dove viviamo noi? Abbiamo riferito quello che dicono i tecnici dell'Istat, non è che lo diciamo noi, che è inaspettato il dato. Allora, le notizie in breve di oggi, partiamo dall'oro, in aumento a 1331,4 dollari l'oncia, guadagna lo 0,3%. Per quanto riguarda il petrolio invece abbiamo segnali di calo, tanto sul WTI, quello quotato a New York, meno 0,21% a 102,08 dollari al barile, e il Brent in calo dello 0,28, ultimo prezzo 107,9 dollari al barile. Buoni i dati dagli Stati Uniti, le richieste di sussidi di disoccupazione sono in calo ai minimi da metà 2007, il dato è sceso a 304.000 unità, gli analisti si attendevano 319.000 richieste di sussidi di disoccupazione, una conferma del progressivo miglioramento del mercato del lavoro americano. La vicenda di Banco Espirito Santo, che cos'è? È una banca portoghese, i bond sono crollati ai minimi storici dopo che la controllante Espirito Santo International ha ritardato i pagamenti sui titoli a breve, quindi si è riacceso il timore di solvibilità. Questo tra l'altro ha avuto un impatto sui mercati, su tutti i titoli bancari. Lo stesso Banco Espirito Santo è arrivato a cedere oggi il 17%. Ci sono, c'è quello che dice la BCE. Man mano che le misure lanciate dalla BCE a giugno si trasmetteranno all'economia, contribuiranno a riportare i tassi di inflazione in prossimità del 2%. Lo prevede la stessa Banca Centrale Europea, spiegando che i tassi resteranno ai minimi storici a lungo, che il consiglio direttivo è unanime nel suo impegno a ricorrere anche a strumenti non convenzionali se necessario. L'impatto della crisi, e ce ne eravamo accorti, dice la BCE, sulla crisi del debito sovrano, sui finanziamenti e sui bilanci delle banche, ha probabilmente avuto conseguenze più pesanti sulle aziende più piccole, che dipendono maggiormente dai prestiti bancari, e sulla loro attività reale, come mostrato anche dai primi studi empirici effettuati su dati, guarda caso, italiani. Certo, non ci voleva la BCE, però uno studio complessivo è sempre utile. I paesi dell'area euro non devono vanificare i progressi conseguiti, dice la BCE. Qua siamo nell'ambito un po', se vogliamo, delle banalità che anche la banca centrale deve dire, non devono vanificare il loro sforzo di consolidamento dei conti. Il ministro dell'economia francese Arnaud Montebourg dice che ridurre l'indebitamento e ristabilire l'equilibrio dei nostri conti può essere fatto, ma non può essere fatto a scapito della crescita. Mentre, a proposito di tagli alla spesa, i dipendenti pubblici del Regno Unito oggi sono in sciopero. Lo sciopero coinvolgerebbe oltre 1 milione di persone, pompieri, insegnanti, bibliotecari, addetti ai musei. Perché? Perché David Cameron ha deciso una riforma delle pensioni e dei salari, che l'esecutivo ha congelato nel 2010 per poi introdurre nel 2012, un tetto dell'1% agli aumenti di stipendio. L'Italia, c'è la notizia che avete sentito anche poco fa nel GR del nostro Enrico Pagliarini. La Commissione europea ha ingiunto al nostro paese di recuperare dai produttori di latte multe per 1 miliardo e 400 milioni di euro dovute al superamento delle quote tra il 95 e il 2009. Era stata già aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia un anno fa, il 20 giugno 2013, con l'invio a Roma di una lettera di messa in mora. Il parere motivato rappresenta la seconda tappa della procedura di infrazione. Le autorità italiane, dice alla Commissione, non hanno messo in opera le misure sufficienti per assicurare il pagamento delle somme. Il ministro Martina dice che la questione delle quote latte è nota e vecchia negli anni, è stata gestita molto male. Nelle prossime settimane ci saranno passaggi organizzativi e procedure molto chiare. Vogliamo far rispettare la legge, dice Martina. Per quanto riguarda sempre l'Italia, abbiamo uno spread in risalita. Lo vediamo anche come stanno andando i mercati. Un nuovo minimo storico per il collocamento dei bot ad un anno allo 0,387%. Del dato sulla produzione industriale vi abbiamo detto poco fa, meno 1,2% su mese, meno 1,8% su anno. Secondo il centro studi Confindustria, nel secondo trimestre ci sarà un meno 0,5% per quanto riguarda appunto la produzione industriale. In maggio da segnalare che la produzione di autoveicoli è diminuita del 3% rispetto all'anno precedente. Le banche. Oggi c'è stato l'assemblea dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Dice Patuelli, la soluzione dei mali italiani non è un improbabile ritorno alla lira, dobbiamo avere piena consapevolezza che la soluzione non sta in tardive nostalgie di un passato superato e che non torna. Ritornare alla lira porterebbe effetti nefasti. Poi ci sono i dati. In questi 6 anni di crisi i prestiti bancari in Italia sono passati da 1.555 miliardi di euro dell'agosto 2008 a 1.711 miliardi di euro dell'aprile scorso. Non li hanno visti in molti, eh? Visco dice per le banche italiane liquidità BCE fino a 200 miliardi di euro, quindi si confermano le cifre che erano state ipotizzate all'inizio. Le stesse misure della Banca Centrale Europea di iniezione di liquidità possono avere un effetto sul PIL fino ad un 1% al 2016. Interviene anche il ministro dell'economia Padoan e dice che per la crescita non ci sono scorciatoie. Sentiamolo. Siamo in un contesto di crescita debole e incerta. La disoccupazione rimane elevata e si conta in Europa nell'ordine di decine di milioni, soprattutto tra i giovani. È un problema dell'Italia, è un problema dell'Europa. Anche per questa ragione la presidenza italiana del semestre appena iniziata ha posto al centro della priorità dell'azione futura dell'Europa di sostenere la crescita e l'occupazione. Si tratta di una priorità che è stata fortemente condivisa e ribadita di recente ed è stata accolta anche alla riunione di Ecofin a cui ho partecipato 2 giorni fa. Vorrei sottolineare che questa centralità della crescita e dell'occupazione non è ovviamente una priorità del solo semestre italiano, ma è nel nostro auspicio la priorità del prossimo ciclo parlamentare dell'Europa e dell'azione della nuova Commissione che si insedierà alla fine di quest'anno. E che ci debba essere un orizzonte di medio termine è indispensabile. La crescita è un processo complesso, spesso non ben compreso. Soprattutto non ci sono scorciatoie per la crescita. È necessaria una strategia a più piani. C'è chi mi scrive, sta iniziando una nuova crisi, un annus horribilis, confessalo, non tartufeggiare. Ma qua non è che si tartufeggia, non so esattamente cosa voglia dire il termine, ma lo intuisco. Non è che si tartufeggia, abbiamo questi dati, insomma, vediamo che sarà il resto dell'evoluzione dell'anno. Come sapete il centro studi di Confindustria prevede un più 0,2% di crescita, se tale si può chiamare, per il 2014. Certo, all'apparenza e coi dati che abbiamo fino adesso non possiamo parlare di un anno esplosivo, di un anno di ripresa. C'è chi mi scrive invece delle file di turisti a Rimini e del popolo che comunque va in vacanza. Suggerisco di non utilizzare esattamente quello come indicatore, insomma. C'è gente che scientificamente fa questo lavoro, al di là delle previsioni misura quello che è successo. Delle previsioni, come sapete, ci fidiamo non tantissimo, però c'è chi misura quello che è successo. C'è la vicenda Ilva, anche su questa torneremo più avanti. Il PM ha chiesto 5 anni e 4 mesi per Fabio Riva e confisca di 91 milioni per truffa allo Stato, chieste 4 condanne anche per Riva Fiere. Una vicenda collegata, non direttamente collegata alle questioni che riguardano l'inquinamento. La cosa importante è che stanno uscendo le bozze del decreto legge sull'ILVA che prevederebbe lo sblocco delle risorse sotto sequestro per l'attuazione e la realizzazione del piano ambientale sanitario non oltre l'anno 2014. Viene introdotto un commissario ambientale per attuare nei tempi previsti gli interventi di risanamento. E poi, per l'osservanza del piano di risanamento, devono essere attuate almeno l'80% delle prescrizioni entro il 31 luglio del 2015. Poi abbiamo anche Alitalia, dichiarazione di Alitalia su Alitalia oggi. Lupi che dice che entro domani si deve chiudere e si riferisce naturalmente al tema della... Non è chiaro in realtà se si riferisca al tema della trattativa con i sindacati, perché oggi c'è stato un nuovo incontro per la questione dell'assorbimento degli esuberi, o se si riferisca proprio a tutto il resto. Però quanto pare proprio alla questione dei sindacati. Entro domani si deve chiudere, siamo tranquilli. Entro il 22 riceveranno quel che si aspettano dal governo italiano. No, si riferisce alla trattativa appunto tra l'Italia ed Etihad. A volte le dichiarazioni nemmeno dei ministri quelle sono un granché chiare. La FILT CGIL ribadisce il no ai licenziamenti. Allora, questo è il quadro delle notizie in breve di oggi. Ci fermiamo, ci prendiamo una pausa come sempre a quest'ora, pochi minuti di pubblicità, poi ritorniamo, ci ascolteremo qualche altra dichiarazione dall'Assemblea dell'ABI, faremo il punto sui mercati come sempre e poi parleremo di questo investimento nell'intrattenimento a 20 km da Roma, Cinecittà World. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. State continuando a scriverci a proposito di questi dati sulla produzione industriale e vedo, insomma, naturalmente grande preoccupazione, insomma, nelle vostre parole. Oggi lo stesso bollettino di guerra, ci scrive un ascoltatore, di tutti i giorni degli ultimi mesi e degli ultimi anni non ne usciamo. Certo che il dato che abbiamo visto oggi è un dato nuovamente preoccupante, associato alle previsioni che vengono fatte in queste settimane e queste ore, non fa ben sperare evidentemente per questo 2014. Da dove ripartire? Insomma, lo si dice sempre, si dice che il turismo potrebbe essere il nostro petrolio, ormai è quasi una banalità, però insomma, oggi si inaugura un nuovo luogo di intrattenimento. Si chiama Cinecittà World, è un parco divertimenti interamente dedicato al cinema, quindi una grande nostra eccellenza, a 20 km da Roma. Investimento da 250 milioni di euro, apertura al pubblico prevista per il 16 di luglio. Saluto un uomo che ha avuto una giornata piuttosto intensa, perché prima è stato all'assemblea dell'ABI in quanto presidente di BNL e poi appunto è andato all'inaugurazione di Cinecittà World, che è della società che lui guida, IEG, Italian Entertainment Group. Luigi Abete, benvenuto, buonasera. Buonasera a lei, l'apertura è il 24 di luglio, non il 24 quindi... di luglio, abbiamo dato un'informazione sbagliata. Io sono qui nel parco, nel frattempo il roller coaster che ha 12 affidamenti su se stesso sta facendo, come dire, divertire un po' di giornalisti, non... i suoi colleghi che sono venuti per la conferenza. Lei non è sul roller coaster, no? No, sulle cose stanno gli altri, io li sto guardando da sotto, voglio dire. Però mi guardo in buona compagnia perché sto col maestro Morricone che ha firmato le musiche dell'area western che sta qui vicino collegata con le coste e sto con altri amici autorevoli e sono tutti molto soddisfatti e sono contento che questo è un investimento molto importante che ha dato lavoro a 1000 persone, 500 dirette e 500 indirette e che speriamo valorizzi anche Roma come polo di attrazione internazionale più di prima, visto che questi strumenti di entertainment hanno questa funzione di stabilizzare il turismo e dare quindi valore aggiunto alla presenza degli stessi. Allora ci dà un'idea, ci dà qualche numero, Abete, su di che dimensione è stato l'investimento, che cosa vi aspettate? L'investimento finora è stato di 250 milioni, noi pensiamo di avere 1,5 milioni di visitatori l'anno prossimo, che è il nostro budget, 1000 occupati, un EBITDA che dovrebbe essere intorno al 30% del fatturato, che si aggira intorno ai 55-60 milioni, con la potenzialità del parco, visto che c'è un terreno limitrofo da sviluppare, di potersi più che raddoppiare mano a mano che lo stesso si affermi. Accanto a questo pensiamo di costruire in un'area verde di 75 ettari che apriremo l'anno prossimo un parco naturale in modo tale da dare a tutta la famiglia la possibilità di divertirsi in modo diverso all'interno di un complesso territoriale unico e pensiamo con questo di raddoppiare l'investimento e di raddoppiare anche gli occupati. Il che potrebbe essere tutto questo, cioè la presenza e l'esistenza di Cinecittà World potrebbe essere benefico anche per Roma evidentemente, perché potrebbe consentire, come dire, di allungare la permanenza dei turisti, no? Invece di star solamente 3 giorni e farsi il classico giro della città, magari si fanno anche 2 giorni da voi e restano in città. Guardi, certamente un giorno noi pensiamo che si possa tentare di allungarlo, questo d'altra parte lo stesso effetto c'è stato con l'investimento di Disney su Parigi, voglio dire, che ha aumentato la permanenza. Il vantaggio che noi abbiamo è che siamo molto più vicini alla città, noi siamo nella città, nel comune di Roma e quindi a 10 km dall'euro, quindi non c'è sostanzialmente discontinuità territoriale e inoltre che abbiamo la possibilità, dicevo, di questo ampliamento progressivo e quindi noi siamo fiduciosi che questo sia d'altra parte sia un buon investimento e soprattutto nella linea del modernizzare il paese. Noi pensiamo che il paese per svilupparsi ha bisogno di puntare sulle sue eccellenze. Un'eccellenza è il Made in Italy che va nel mondo, si internazionalizza, l'altra eccellenza deve essere la qualità dei servizi di entertainment italiani, che significa cultura, storia, ambiente, sport, che arrivano a un livello tale da poter essere attrattivi degli turisti internazionali. Questo è, come dire, il nostro progetto e su questo stiamo lavorando. Senta una cosa, allora alla fine ce l'avete fatta, però questo investimento, come praticamente tutti i grandi investimenti italiani, ha avuto anche lui i suoi problemi di burocrazia. È stato bloccato 5 anni perché noi abbiamo fatto uno studio logistico per vedere qual era il luogo più idoneo per fare l'investimento e poi abbiamo scelto quest'area. Dopo aver scelto quest'area ci siamo accorti che si poteva fare industria e servizi eccetto intrattenimento. Per togliere questo inciso, che era una roba di 30 anni prima, ci abbiamo messo 5 anni. Nonostante le forze istituzionali, centro-destra e centro-sinistra, fossero tutte e due d'accordo. Ma com'è stato possibile? Com'è stato possibile questo? È stato possibile che 40 anni fa, evidentemente, quando è stato fatto il regolamento dell'area. No, voglio dire che così fosse, no, che così fosse, è chiaro, no? Era così, ma nonostante l'accordo, come dire, politico complessivo di tutti quanti, in 5 anni non sono riusciti a sbloccare questa cosa. Perché per togliere quelle due parole bisognava cambiare il piano regolatore della zona. Per cambiare il piano regolatore della zona ci sono una serie di processi, di una serie di istituzioni diversificate sul territorio, per cui il percorso di questo iter burocratico per togliere due parole che erano del tutto inutili, ci ha messo 5 anni, ci ha fatto perdere 5 anni di potenziale sviluppo, occupazione. Questo perché tutti erano d'accordo e perché gli azionisti del parco si chiamavano Abbede, Della Valle, De Laurentiis. Figuriamoci se non fossero stati d'accordo e se non si fossero chiamati gli azionisti Della Valle, De Laurentiis, Abbede o così via. Che significa che noi abbiamo in Italia due problemi. Abbiamo un problema di comportamento, di cultura, dei, diciamo nel day by day, e abbiamo un problema proprio di architettura burocratica, perché se poi la gente anche quando vuole non riesce a cambiare le norme perché ognuno si mette paura di mettere una firma in più. Ma qui adesso il sindaco Veltroni che sta arrivando, perché è stato uno dei partner fondamentali di questa iniziativa, perché questa iniziativa è nata durante la sua amministrazione, ci ha accompagnato dal 2001 al 2008, e dato che è venuto a trovarci, io in diretta con voi lo saluto pubblicamente. Prego, siamo naturalmente è un momento particolare. Allora facciamo così. Avete perfetto. Io sono multitasking. Senta, vorrei capire l'ultima cosa, visto che ci stanno anche arrivando degli SMS dagli ascoltatori su questo, ed è un altro elemento che evidentemente riguarda le amministrazioni, non so quanto quelle locali, dal punto di vista infrastrutturale, il collegamento con il parco. Noi oggi abbiamo un collegamento con Santa Palomba, che è la stazione qui vicino di Pomezia, che un servizio di navetta, che abbiamo un servizio di navetta anche con Termini e con l'EUR, la metropolitana. Comunque noi in questo momento non abbiamo un problema specifico, perché siamo in un'area in cui c'è un outlet molto importante che già ha 4 milioni di visitatori. Lei capisce che il nostro 1,5 milioni di visitatori è una parte di questi 4 milioni. Benissimo. Quindi okay. Poi è vero che la Pontina è una strada molto trafficata, ma ci sono altre due strade okay. che arrivano in questo posto, e quindi solo che gli italiani sanno come sono, fanno sempre la stessa strada, e quindi avendone tre a disposizione ne usano una perché è più grande e lasciano le due più piccole, e così facendo fanno le file. Allora, io la ringrazio, grazie Luigi Abbede, la lascio a questi festeggiamenti, a questa inaugurazione, le auguro buona giornata. E a chi mi scrive su Twitter, fu eccellenza il cinema Simone Spezia, adesso è degrado. Beh, insomma, non esageriamo. Innanzitutto abbiamo appena l'Italia, un film italiano appena vinto l'Oscar come miglior film straniero proprio quest'anno. E poi là dentro comunque ci hanno portato le scenografie di Dante Ferretti, che è uno che di Oscar ne ha vinti 3. Insomma, poi magari non sarà, il cinema italiano non sarà straordinario, non vivrà la fase migliore, però da quel lato, insomma, anche dal lato delle capacità tecniche di quello che possiamo fornire, mi sembra che non sia il caso di buttarsi così giù. È il momento della borsa, una giornata brutta, oggettivamente brutta. Il FTSE MIB chiude in calo di quasi 2 punti percentuali, il FTSE Share altrettanto, Francoforte in calo di 1,5 punti, Parigi dell'1,34, Londra dello 0,69%. Che cosa pesa in questa giornata? Beh, per quanto riguarda l'Italia, probabilmente c'è anche una componente che riguarda il dato sulla produzione industriale, che probabilmente non era atteso così basso, cioè attese in calo ma non così forte. E poi ci sono i timori per quanto riguarda il Portogallo, come si diceva, questo Banco e Spirito Santo, che è in una situazione finanziaria decisamente grave. Saluto Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti Gestiel SGR. Buonasera Fiorini. Buonasera a voi. Allora, partirei proprio da qua, perché questa vicenda di Banco e Spirito Santo, io non so se i mercati hanno reagito in questo modo per una sorta di riflesso condizionato, ossia timore di una nuova crisi bancaria, di una nuova esplosione di una crisi bancaria, o se hanno reagito così perché comunque una correzione, come dite voi tecnici, era nell'aria. Diciamo che la correzione non era nell'aria, però sicuramente serviva un elemento catalizzatore che oggi abbiamo avuto, perché già nella partenza la produzione industriale, come si diceva in studio, non è stata brillante, e questo era un po' come deludere, no? Un mercato che si aspetta che l'Italia prima o poi riprenda e poi invece continua un po' a deludere. Però bisogna dire il vero colpevole del movimento di oggi è sicuramente Banco Spirito Santo, con quello che questo si porta dietro, cioè un po' un ricordare vecchie storie che pensavamo di aver dimenticato, no? Una banca periferica, perché stiamo parlando di una banca portoghese, che in realtà sembra aver un attimo truccato i conti, non ci sono notizie, quindi la situazione potrebbe essere anche meno grave del previsto. Però in questo momento, ecco, ricordare purtroppo notizie negative come quelle del passato, in cui una banca ha qualcosa da nascondere e nasconde questo sotto il tappeto con l'aiuto anche di altre aziende, perché vorrei ricordare velocemente che Banca Spirito Santo si è finanziato sul mercato prestando soldi a Portugal Telecom affinché questa comprasse titoli di Banca Spirito Santo, quindi aiutandosi se stessa. Ecco, è uscito un po' questo, e questo ha fatto ricordare cose brutte che hanno portato giù tutti i periferici. Certo, naturalmente, perché poi alla fine lei diceva non si sa, non si hanno ancora notizie certe. Da questo punto di vista è proprio il peggio, perché nel momento nel quale non hai notizie certe, se non sai, di base vendi. Intanto ci fermiamo per il traffico e poi torniamo con lei. Strade in diretta. Di nuovo buonasera. Sulla tangenziale sud di Torino ora sono 5 i chilometri di coda dopo un incidente tra Drosso e Moncalieri verso la A21. Anche sulla tangenziale ovest di Milano si è verificato un incidente, ci sono code tra la statale 35 dei Giovi e Valtidone verso l'Autosole. Sulla 4 Milano-Brescia c'è una coda tra Cormano e Milano Est anche per un incidente ora risolto in direzione Brescia. Su questa autostrada verso Milano code tra la tangenziale est e viale Certosa per il traffico interno. Ricordiamo anche questa sera il concerto allo Stadio Meazza di Milano dei Vasco Rossi, che richiama molto pubblico. Sulla 13 Bologna-Padova verso Bologna code di 3 km ancora tra Occhiobello e Ferrara Nord per un veicolo fermo in panne. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica in direzione sud, c'è una coda di 2 km tra San Benedetto del Tronto e Giulianova e di 1 km tra Ortuna e Lanciano per un cantiere. Verso nord le code sono di 1 km circa tra Rosetto degli Abruzzi e Val Vibrata, sempre per lavori. Raccomandiamo prudenza per le forti piogge nei pressi di Pescara. Su questa autostrada ci sono allagamenti fra gli svincoli di Pescara e in entrata allo svincolo di Pescara Nord. Per ora è tutto, a dopo. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo a parlare di mercati, ma prima un paio di risposte ad SMS che ci sono arrivati. A proposito di Luigi Abete, qualcuno scrive a proposito degli incarichi. In questo caso abbiamo intervistato, è l'azionista di questa società, è uno degli azionisti di questa società, quindi non è una questione di incarichi, è una questione di aver fatto un investimento da un punto di vista personale. L'altra questione, sul tema di questi 5 anni trascorsi nei quali non si riusciva a togliere un vincolo ridicolo, perché quella era una zona che poteva essere una zona industriale, ma non poteva essere una zona nella quale facevi intrattenimento. 5 anni, tutte le forze politiche d'accordo, eppure quel vincolo per 5 anni non è stato tolto. Ci scrive un ascoltatore: siamo un popolo destinato a scomparire, ce lo meritiamo. Forse così un po' troppo, però insomma, qualche riflessione andrebbe fatta. Allora, ancora con Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti GSL SGR. Abbiamo analizzato fin qui il fattore esogeno, per così dire, che è la vicenda di Banco Spirito Santo, questa banca portoghese. Vorrei venire invece al fattore endogeno, e quindi la nostra produzione industriale, se ha avuto un impatto su questa performance pessima di Piazza Affari oggi, contando che oggi si è arrivati a perdere sui 2,5% in certi momenti, in particolare subito dopo l'uscita del dato. Fiorini. Sì, noi abbiamo questo, diciamo, problema di non avvio ancora della ripresa, no? Ci sono grandi aspettative perché effettivamente i primi segnali è un po' eufemistico come non dire non avvio della ripresa, però gliela passo. Perché cerchiamo di leggere sempre in tono positivo, no? Perché i segnali ci sono. Il mercato chiaramente si aspettava subito qualcosa di concreto, no? Dopo i primi segnali, invece, ecco, questa concretezza ancora tarda ad arrivare, ma io non mi stupisco di questo. Noi veniamo da una crisi fortissima, da una convalescenza lunghissima da cui stiamo ancora uscendo, non siamo ancora usciti da questa convalescenza. Il sistema bancario non è ancora in grado di erogare credito in condizioni normali, probabilmente lo sarà solo da settembre, finita questa review che la Banca Centrale Europea sta facendo sugli istituti bancari. Ecco, io penso che da allora potremo iniziare ad avere qualcosa di concreto. Fino ad allora avremo questi alti e bassi, stop and go, che purtroppo in parte deluderanno, ma che fanno parte di questa convalescenza. Questa è la sostanza dal punto di vista macroeconomico. Ultima domanda che le voglio fare, molto brevemente, lo so che queste sono cose terribili, perché fare le previsioni ci si sottopone sempre a molti rischi. Quanto può durare, secondo lei, questa correzione, così come si dice? Allora, questa correzione che ha sfruttato queste situazioni particolari, periferici, produzione industriale, manca ancora di un elemento, che è l'elemento americano e l'aspettativa di finalmente messa a mano da parte della Banca Centrale Americana ai tassi di interesse. Quello sarà l'ultimo grimaldello per far correggere i mercati, dopodiché io penso che riprenderanno i mercati, perché poi l'economia finalmente darà segni e quindi i mercati potranno riprendere, soprattutto in Europa, in maniera estremamente significativa. Ma per la correzione manca ancora un tassello, forse a fine mese qualcosa arriverà dall'America, l'aspettativa di manovre sui tassi di interessi o su minor liquidità in America, perché la situazione è molto migliore in termini di crescita economica e la banca centrale deve chiudere un attimo questi rubinetti che stanno pompando liquidità in maniera eccessiva rispetto alle esigenze. Quando il mercato avrà metabolizzato anche questa evoluzione, la correzione sarà completata e penso che quella sarà la grande occasione d'acquisto per i prossimi 12 mesi. Allora, la ringrazio, grazie a Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti Gestielle SGR. Le auguro buonasera e buon lavoro. E noi vi diamo un quadro finale anche degli altri titoli. Mediaset giù del 4,83%, il titolo peggiore sul FTSE MIB, negativi molti bancari come per esempio Monte dei Paschi che c'è del 4,29%, la Popolare di Milano il 3,25%. Male anche Prismian, meno 3,87%, Campari meno 3,5%, Autogrill altrettanto, World Duty Free altrettanto, G-Tech meno 3,4%. CNH meno 3,03%, Saipem meno 3,10%, A2A meno 2,9%. Scende del 2,8 Banco Popolare, del 2,7 7 Microelectronics Luxottica, del 2,5 Unicredit, Moncler, Buzzi ed Exor, di oltre il 2% la Popolare Emilia Romagna, Azimut, Eni e Tots, di quasi il 2 Generali e Pirelli, Unipol giù dell'1,81, dell'1,7 scendono Ubibanca nel Green Power e Fiat, di 1,5% Mediobanca, scende dell'1,2 Enel, di 1% Intesa San Paolo, Terna dell'1%, così come Atlantia, Salvatore Ferragamo dello 0,82, Snam dello 0,68, dello 0,6 Mediolanum, dello 0,45 Telecom Italia, dello 0,29 Tenaris. E poi i titoli sono quasi finiti perché ci sono solo due titoli in positivo sul listino principale: Finmeccanica più 2,10 e Iux più 0,38%. I titoli migliori sul listino in assoluto sono Bastoggi, che guadagna un 14,5%, Brioschi il 3,26, Sacom il 2,88, in fondo Eco Santec meno 10,31, Mondo TV France meno 9,2. Infine i cambi, l'euro quota 1,3599 contro dollaro. E insisto con gli ascoltatori che continuano a chiedere, dite la verità che non ci sarà mai una ripresa. anche qua mi sembra un po' troppo. A chi dice le capiedi chieda come mai non hanno abolito Equitalia, non so a chi dovrei chiederlo, quindi non so di chi dovrei essere le capiedi nemmeno. Però insomma, magari domani ne parliamo di Equitalia, eh? Buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Chi ci scrive al 349-238-6666, il nostro numero di SMS, fa bene a ricordarcelo perché abbiamo omesso questa notizia nel raccontare questa giornata di mercati, ossia che la Fidim della famiglia Rovati ha annunciato di aver ritirato il progetto di quotazione della loro azienda, la Rotta Farm. Perché? Perché non si sono verificate le condizioni per un'operazione che rispecchi oggi il valore intrinseco della società, così si legge nel comunicato, ma anche alla luce della sfavorevole situazione del mercato dei mobiliare, dei titoli domestico ed internazionale. Quindi un ulteriore segnale che evidentemente le prospettive anche dal lato dei mercati non sono buone. Allora, qualcuno ci scrive ancora a proposito di Equitalia, pardon. Guardate, magari proveremo a tornarci domani su questa ipotesi di abolizione, perché io vorrei anche capire, nel momento nel quale abolisci Equitalia, a chi fai riscuotere e come? Perché poi qualcuno deve pur sempre riscuoterle queste tasse, no? Le tasse qualcuno non paga. Allora il problema sarà Equitalia o saranno le regole di riscossione che dai ad Equitalia? Non fermiamoci alla superficie sempre su questo fronte. Però è un tema su cui ragionare sicuramente. L'assemblea dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Patuelli è stato rieletto presidente, Antonio Patuelli. ABI che si avvia ad innalzare ulteriormente i requisiti di onorabilità, modificando lo statuto dell'associazione. Si scaglia Patuelli contro chi ipotizza un'uscita dall'euro. Dobbiamo quindi avere piena consapevolezza che la soluzione dei cronici mali italiani non sta in tardive nostalgie di un passato irrimediabilmente superato e che non torna. L'improbabile ritorno alla lira porterebbe effetti nefasti, soprattutto per i più deboli e i risparmiatori. Sarebbe un crudele attacco all'equilibrio sociale e un rimedio peggiore del male. La via da seguire è diversa e richiede senso di responsabilità e implica innanzitutto la piena e coerente adozione dei principi, dei doveri e dei diritti fondamentali di una matura civiltà economica e democratica. Sono doveri e diritti e senso di responsabilità che non riguardano solo imprese e cittadini, ma richiedono una rinnovata consapevolezza del ruolo di esempio dello Stato e delle sue articolazioni territoriali. Vedo che siete in molti che continuate a scrivere in merito all'ipotesi del Movimento 5 Stelle di abolizione di Equitalia. Ci dite, c'è già l'Agenzia delle Entrate, però ribadisco la domanda: se dai all'Agenzia delle Entrate le stesse regole di riscossione di Equitalia, non risolvi il problema, evidentemente, no? E il punto è quello, il punto sono sempre le regole, cioè non è chi lo fa, perché è una personalizzazione anche se si tratta di un'azienda di riscossione. Poi magari sbaglio io, vedremo di approfondire. Ancora Patuelli dice che in 6 anni i prestiti sono passati da 1.550 miliardi a 1.711 miliardi e quindi sono aumentati i prestiti bancari. Naturalmente bisogna vedere a chi, qua si può innestare l'eterno dibattito tra le banche e le imprese e le famiglie. Le imprese e le famiglie dicono non ci date soldi, loro che dicono no, noi valutiamo il merito di credito di ciascuna azienda o famiglia. Per oggi lasciamo stare. Dice ancora Patuelli, ci sarà più credito grazie agli aumenti di capitale realizzati o in corso da parte delle banche italiane. E dice anche che il peso della tassazione, in particolare l'addizionale straordinaria IRES varata a fine 2013, contrasta non solo con le regole di equità, ma sfavorisce appunto la ricapitalizzazione delle stesse banche. Presidente dell'ABI chiede che almeno gli utili accantonati a patrimonio vengano sgravati dall'addizionale IRES, appunto. Qualcuno conforta il ragionamento che si faceva su Equitalia, dice un ascoltatore, sono via sms al 349-238-6666, sono da cambiare le regole, debito 2.700 euro, rateizzato 4.900, non va così. Capisco, siamo perfettamente d'accordo. Smetterò di dare soddisfazione all'insultatore professionale, sa che cosa sto dicendo, ricordandogli che è anche male informato, perché quando scrive che Equitalia è privata non è vero, è al 51% dell'Agenzia delle Entrate e al 49% dell'INPS, quindi adesso smettiamola. E sentiamo che cosa dice il governatore della Banca d'Italia Visco sulla ripresa, che non c'è. L'inflazione pari in giugno allo 0,5% resta ben al di sotto dei valori compatibili con la stabilità dei prezzi. In Italia la ripresa stenta ad affermarsi. La dinamica dei prezzi al consumo è scesa allo 0,2%. Così Visco, il quale stima dalle misure prese dalla Banca Centrale Europea un effetto sul PIL fino all'1% al 2016. Dice anche il sistema finanziario, qua siamo d'accordo, deve riguadagnare la fiducia del pubblico. Il sistema finanziario deve riguadagnare la fiducia del pubblico, deve dimostrare di saper svolgere appieno le funzioni che gli sono proprie, non facendo mancare il finanziamento a chi lo merita, sostenendo l'economia reale. È un percorso che richiede agli intermediari, come ho detto, limpidezza dei comportamenti e salvaguardia della legalità. All'interno del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria abbiamo costituito un nuovo servizio dedicato alla tutela della trasparenza e della correttezza delle relazioni con la clientela. I controlli che conduciamo mirano a verificare il rispetto delle regole e l'idoneità degli assetti organizzativi degli operatori. Possono dar luogo a sanzioni, ordini di restituzione ai clienti, richieste e azioni correttive. Ha parlato anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, ha detto che bisogna ridimensionare la pressione fiscale e non c'è nessun dubbio, ha detto che in pochissimi giorni arriverà il piano per le infrastrutture e ha chiesto alle banche di sostenere le imprese. La crescita più sostenuta è anche la via maestra per abbattere durevolmente il debito. Il grado di sostenibilità del debito italiano rimane fra i più elevati tra i paesi avanzati. Questo lo dicono le analisi delle istituzioni internazionali, compresa la Commissione europea. Si tratta di rafforzare la crescita e quindi rafforzare la stabilità finanziaria in un contesto nel quale consolidamento fiscale, che va perseguito e rafforzato, e riforme strutturali vanno insieme. È compito di nuovo della politica, sia nazionale che europea, integrare questi due elementi nel modo più efficiente. Ed eccoci a parlare della fantomatica ripresa annunciata da mesi, che però viene regolarmente smentita da dati molto pesanti come quelli sulla produzione industriale oggi, meno 1,2% su un mese in maggio rispetto al mese precedente, rispetto ad aprile, meno 1,8% rispetto all'anno precedente. Il centro studi di Confindustria che parla di una produzione in calo di 0,5 punto percentuale nel secondo trimestre dell'anno. Saluto Patrizio Bianchi che è, per così dire, prestato alla politica come assessore al lavoro della regione Emilia-Romagna, ma in realtà è un professore, un economista che si occupa di economia industriale, autore della Rincorsa frenata, Il mulino, proprio sul tema dell'industria italiana, una storia dell'industria italiana. Bianchi, buonasera. Buonasera, eccoci. E saluto il collega del Sole 24 Ore, Paolo Bricco. Ciao Paolo, buonasera. Ciao, buonasera a te, buonasera al professor Bianchi e buonasera a tutti i radioascoltatori. Con te parleremo invece di Ilva, perché sta per arrivare, a quanto pare, il decreto del governo. Allora, Bianchi, per citare il suo libro, insomma, più che una rincorsa, mi sembra un costante rallentamento ultra frenato, per così dire. Eh sì, questa volta abbiamo visto il freno in azione. No, sembra veramente che ogni volta che il paese comincia a prendere una rincorsa, poi l'insieme di tutti gli elementi europei e anche italiani tendano a frenare. Ed è questo il dato che secondo noi poi colpisce di più. Quello che a me ha colpito di più dei dati di oggi è che per la prima volta segna un freno anche il settore dei beni di investimento. Questa è la cosa più preoccupante. E perché? Perché probabilmente a livello europeo, dove si rivolge ancora gran parte della nostra, chiamiamola esportazione, anche se fatico a chiamare esportazione qui in ambito europeo, la non ripresa complessiva dell'Europa ha in un qualche modo anche abbassato di molto la spinta all'innovazione, all'acquisto di nuove macchine, nuovi materiali, e dall'altra parte anche la stessa Cina ha avuto un rallentamento. Quindi, posto che il motore della nostra macchina finora ostinatamente erano proprio i settori a media alta tecnologia che tiravano impianti e macchine, questo segnale mi sembra il più preoccupante, perché è il cuore della nostra industria che sembra in un qualche modo battere in testa. E segnala anche, Bianchi, mi sembra un... una tendenza a non guardare il futuro, una preoccupazione, esatto, per il futuro, no? Perché nel momento nel quale tu decidi di non investire nel tuo sviluppo, appunto, sia esso tecnologico o anche semplicemente, appunto, di capannoni, di macchinari, di quello che ci pare, vuol dire che sul futuro non hai certezze o nutri delle fortissime preoccupazioni. È questo, ma anche perché guardi, sul lato interno, dopo 1, 2, 3, 4, non dico trimestri, ma non dico anni, in cui la domanda interna è depressa, la capacità di fare investimenti in macchine diventa molto difficile. Ma anche a livello europeo noi stiamo segnando questa idea di come aver ostentatamente parlato di politiche di rigore, che in prima battuta può anche andar bene, ma alla lunga, per la gran parte di Europa che è stata, che ha subito i gol del rigore, in realtà questo diventa poi, si ritorce contro tutti e anche contro la stessa Germania, perché la parte centrale dell'Europa, di cui la parte almeno nord Italia oggi è fortemente integrata, sta sentendo questo tema. Certo. Molto brevemente, in 5 secondi, o solo un sì o un no, cioè lei sta dicendo che a furia di parlare di rigore, anche gli imprenditori sono convinti a non investire più, perché... Sì. Questa è la sostanza, sì, perfetto, chiarissimo, benissimo. Allora, Paolo Bricco, invece parliamo di una grande azienda italiana, ossia l'Ilva. C'è questa bozza di DL che circola, uno sblocco delle risorse sequestrate, un super commissario per il piano di risanamento. Da quel che sai tu, innanzitutto, le cose sono più o meno queste e basterà. Cose sono più o meno queste, se posso in qualche maniera integrare il discorso che ha fatto il professor Bianchi poco fa sul fatto che il Paese, tutte le volte che sembra potercela fare, trova qualche pietra d'inciampo e la ripresa viene rimandata, in qualche maniera c'è anche un tema di incapacità di gestire problemi complessi come le tematiche ambientali delle grandi imprese del settore primario, ecco, se posso in qualche maniera integrare. E questo come questione di metodo. Poi sulla questione invece di merito, sulla bozza, io invito tutti ad attendere l'esito del Consiglio dei Ministri, il quale Consiglio dei Ministri doveva svolgersi stamattina, non si è svolto stamattina perché comunque la bozza licenziata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'accordo anche con il Ministero dell'Economia, con il vecchio MEF, contiene alcuni punti come la prededucibilità dei nuovi crediti bancari, cioè il fatto che in caso di default, e l'azienda non è in default in questo momento, le banche sono tutelate in prima istanza, e poi il fatto che ci sia una maggiore accessibilità ai soldi che per altre ragioni non collegate direttamente al procedimento di Taranto sono sequestrati a Milano, ai Riva, ecco, questi due profili giuridici sono estremamente complessi e quindi, come si dice in politichese, i tecnici sono stati al lavoro tutta la giornata di ieri e tutt'oggi. Quindi, come dire, è per in qualche maniera delineare una questione estremamente complessa che ha problemi giuridico-politici rilevanti. Eh sì, perché naturalmente quando vari un provvedimento tu devi varare un provvedimento generale, anche se in questo caso stai pensando ad una sola azienda. Detta molto semplicemente, Paolo, anche qua solo un sì o un no perché siamo quasi in chiusura. Sì. Questa è la sostanza. Allora, grazie. Grazie a Paolo Bricco, grazie a Patrizio Bianchi, noi ci fermiamo, ci risentiamo domani naturalmente con Effetto Giorno a partire dalle 13. Un ringraziamento a Barbara Bianchi in assistenza e redazione, a Fabio Cantadori in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, a domani dunque. Radio 24, la passione si sente.